Furia romana, non querito vent in lana. Kyrie. Rubrix Lamet Catholica, convertere, convertere, iam mundus languet opere. Voila, voi, brillante, suiore!